le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Irruzione alla Diaz, sospeso l'agente Tortosa dopo le frasi su Facebook, provvedimento anche per un funzionario che aveva cliccato mi piace. Il capo della polizia ha sbagliato mestiere, dice Salvini. Uomo di Torino è fuggito in Francia con il figlio neonato, lasciando la moglie nel parcheggio del supermercato. Si sono perse le tracce, proseguono le ricerche, avrebbe problemi psichici. Sparatore in tribunale, il ministro Orlando riferisce in Parlamento questo pomeriggio l'incontro con i procuratori sulla sicurezza nei palazzi di giustizia. Dopo l'assemblea di ieri sulla legge elettorale si approfondisce la spaccatura nel PD. Qualcuno nella minoranza dice costruiamo l'alternativa a Renzi. Sono tre i film italiani in concorso a Cannes. Matteo Garrone con Racconto dei racconti, Nanni Moretti con Mia madre, Paolo Sorrentino con La giovinezza. La sfida del presidente della Roma Pallotta agli ultras: basta violenti e basta rovesciare merda sui giocatori. Per i veri tifosi mi batterò sempre. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, la pagina della trasmissione sul nostro sito www.radio24.it, durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura parliamo delle decisioni della polizia in merito al caso del poliziotto che partecipò all'irruzione alla Diaz durante il G8 di Genova nel 2001 e che ha scritto sul profilo Facebook che lo avrebbe rifatto mille volte. Parliamo di queste decisioni e lo facciamo con Alessandra Schepisi. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno Simone. La parziale rettifica, le scuse al padre di Giuliani evidentemente non sono bastate. Fabio Tortosa questa mattina verrà sospeso dal servizio, è ufficiale. L'annuncio arriva dal capo della polizia Pansa a margine di un convegno a Roma. Sotto accusa, lo ricordiamo, il post pubblicato su Facebook nei giorni scorsi in cui il poliziotto rivolgeva pesanti offese a Carlo Giuliani, in cui rivendicava con orgoglio di aver partecipato al blitz della Diaz nel luglio del 2001. Io sono uno degli 80 del settimo nucleo, io ero quella notte alla Diaz, io ci rientrerei mille volte, aveva scritto poco dopo la sentenza della Corte di Strasburgo che, come sappiamo, ha condannato l'Italia per tortura. Un messaggio che aveva ottenuto il mi piace dal responsabile della squadra mobile di Cagliari, Antonio Adornato, ai tempi della Diaz vice comandante del settimo nucleo, anche lui sollevato dall'incarico. Oggi la polizia è un'altra cosa, è paladina della legalità, rivendicato dal canto suo oggi Pansa, assicurando che non ci sarà mai più un'altra Diaz, mentre il ministro dell'Interno Alfano in un tweet scrive: abbiamo fatto il giusto e lo abbiamo fatto presto. Sono una vittima sacrificale, invece commentato Tortosa, il quale invoca chiarezza da parte dei suoi superiori, auspicando una commissione d'inchiesta sui fatti di Genova. A difenderlo ci pensa il leader della Lega Salvini. Pansa ha sbagliato mestiere, dice, un governo che punisce i poliziotti vada a casa. A te Simone. Grazie ad Alessandra Schepisi e tra poco parleremo col segretario generale del CONSAP, il sindacato di polizia al quale è iscritto Tortosa, per capire che cosa ne pensa. No. La cronaca ci porta anche alla storia di un uomo che è fuggito con il figlio di pochi giorni, sono in corso le ricerche. Ancora nessuna traccia di Enzo Costanza, 39 anni, torinese, sparito da martedì alle 13.30 assieme al figlio, nato appena 15 giorni fa, da un parcheggio di un centro commerciale alle porte di Torino. A sporgere denuncia la moglie dell'uomo, con la quale pare che i rapporti fossero buoni. La donna era andata a fare la spesa. Quando è tornata al parcheggio, l'auto con a bordo il marito e il figlio non c'erano più. Alle 14.30 le telecamere del traforo del Fréjus hanno immortalato l'auto. Ora le ricerche sono estese a tutta la Francia, lo hanno cercato senza esito a Mentone, dove la famiglia avrebbe una casa. L'unico debole indizio per quello che è accaduto è il fatto che Costanza, la mattina prima di fuggire con il bambino, sia stato dal suo psichiatra, presso il quale era in cura. Sembrerebbe che l'uomo avesse deciso di sospendere la terapia farmacologica e che il medico invece gli avesse consigliato di proseguirla, aumentando anzi la dose dei farmaci. Intanto sono state diffuse le sue generalità: alto circa 1,85 m, capelli corti di colore nero, gli occhi scuri, viaggia su una Fiat Fremont di colore grigio argento, a bordo della quale ci sarebbe appunto anche un bambino di 15 giorni appena. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E continueremo ad aggiornarvi nei nostri appuntamenti con l'informazione e non solo sulle ricerche di questa persona in viaggio e fuggita con un bambino di pochi giorni. La politica, perché ieri si è consumata una violenta spaccatura all'interno del PD sulla legge elettorale, mentre tensioni si addensano anche intorno alla corsa per le regionali. Iniziamo dall'Italicum, Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Nel Partito Democratico è passata la linea di Matteo Renzi che, nonostante le richieste della minoranza interna, ha di fatto blindato l'Italicum, che alla Camera quindi non sarà modificata, la legge elettorale alla quale il Premier ieri ha allegato il destino stesso del suo governo. C'è stata un'infuocata assemblea ieri sera durante la quale Renzi ha incassato il via libera da parte dei suoi deputati, ma al prezzo di una profonda spaccatura nel partito. Al voto non hanno partecipato gli esponenti di Area Riformista e delle altre componenti della minoranza, che hanno abbandonato questa riunione dopo l'annuncio di Roberto Speranza, che ha rassegnato le sue dimissioni da capogruppo alla Camera. Ma su questo sentiamo cosa ha detto il bersaniano Zoggia. Noi non abbiamo abbandonato l'aula per protesta, abbiamo abbandonato l'aula perché di fronte a un fatto politico rilevante, le dimissioni del Presidente del gruppo, riteniamo che ci debba essere una riflessione, se si vuole, non tanto e non solo sulla legge elettorale, sull'Italicum, ma almeno sul fatto politico che è accaduto. Penso ci sia un problema di rispetto e di dignità delle persone. La battaglia ora si sposta alla Camera, dove la minoranza invece potrebbe far valere i suoi voti e complicare, diciamo, i piani di Renzi, che punta invece ad un'approvazione dell'Italicum entro maggio. Simone. Andrea, per chiudere la pagina politica, il lato regionali? Sì, c'è da dire che c'è un nuovo caso oltre a quello di De Luca in Campania per il Partito Democratico. Ieri infatti la candidata in Liguria, Raffaella Paita, che è anche assessore regionale alla protezione civile, ha ricevuto un avviso di garanzia, è accusata di omissione di atti di ufficio ma anche di omicidio colposo e disastro colposo per la mancata allerta durante l'alluvione dello scorso 9 ottobre. Lei si è detta sorpresa e per queste accuse si è messa a disposizione del partito, che al momento comunque le ha confermato la fiducia. Simone. Grazie Andrea Viali per questi aggiornamenti. Siamo all'economia. L'assemblea di Fiat Chrysler, la prima assemblea per Fiat fuori dall'Italia, così possiamo dire, in Olanda. Abbiamo in diretta Andrea Malan del Sole 24 Ore. Andrea, buongiorno. Ha parlato Marchione, sta parlando, che cosa ha detto? Sì. Buongiorno, l'assemblea è in corso la votazione del bilancio, che è il primo punto all'ordine del giorno. John Elkann, il presidente, Sergio Marchionne, amministratore delegato, hanno parlato, hanno espresso la soddisfazione per l'andamento del 2014. Marchionne ha riconfermato le stime positive di crescita per il 2015. Elkann ha sottolineato che con la nascita di FCA, quindi Fiat Chrysler, è cambiato tutto. Lo dimostra il fatto che l'assemblea, oltre ad essere qui ad Amsterdam, è in inglese, le domande in italiano, è stato detto, verranno accettate in via eccezionale, proprio perché è la prima volta che l'assemblea si tiene fuori dall'Italia. L'anno prossimo si parte con l'inglese e basta, oltre all'olandese, che è la lingua ufficiale dell'azienda, visto che l'azienda è con sede legale qui in Olanda. Non molti azionisti hanno fatto il viaggio fin qua ad Amsterdam, però ci sono comunque stati un paio di interventi di piccoli azionisti in italiano, ma molto meno che negli anni precedenti a Torino. Andrea, una breve domanda sul dato che ha preceduto questa assemblea. Stamattina sono uscite anche le immatricolazioni in Europa e sono dati complessivamente positivi per Fiat Chrysler, no? I dati sono molto positivi, Fiat Chrysler è cresciuta più del mercato nei primi tre mesi, tanto che è stato chiesto a Marchionne se non era il caso di rivedere le stime sul 2015 appunto in base a questo dato. Marchionne ha risposto che l'andamento delle singole aree pesa fino a un certo punto. Sappiamo per esempio che in America Latina invece Fiat sta facendo un po' peggio del mercato. Lui in sostanza ha detto, facendo una media, riteniamo che le stime che abbiamo fornito a fine anno siano ancora complessivamente azzeccate, che prevedono comunque, lo ricordiamo, una crescita sia del fatturato che degli utili rispetto all'anno precedente. Grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore. Le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani nel Mediterraneo avvertono in anticipo le autorità italiane tramite delle soffiate quando stanno per inviare barche cariche di migranti. È quello che ha dichiarato al Daily Telegraph il britannico Graham Lees, che era consulente speciale di Frontex. Non solo, sempre secondo le sue parole, gli scafisti non mettono più la stessa quantità di carburante sulle imbarcazioni, sapendo che poi i migranti saranno recuperati. Queste le notizie che arrivano dal Daily Telegraph. Siamo ad una sentenza della Corte Europea di Strasburgo che riguarda le malattie per l'Ilva di Taranto. Ricorso inammissibile. La Corte Europea dei Diritti Umani ha respinto il ricorso presentato nel 2009 da una cittadina di Taranto, Giuseppina Smaltini, contro il governo italiano. La donna, che sosteneva di non essere stata protetta dalle conseguenze sulla sua salute derivanti dalle emissioni dell'ILVA, è morta nel 2012. Nel 2006 aveva scoperto di essere affetta da leucemia e aveva denunciato l'acciaieria, ma i magistrati italiani ritennero insufficienti le prove di un nesso tra emissioni e malattia. Dopo la morte della Smaltini, il marito e i figli avevano continuato l'azione contro l'Italia, ma il fascicolo è stato archiviato per due volte. Secondo i giudici della Corte Europea dei Diritti Umani, la donna non è riuscita a dimostrare che sono state le emissioni dell'ILVA a causare la sua malattia. Quindi i magistrati italiani, con le loro decisioni, non hanno violato l'obbligo di proteggere il suo diritto alla vita. Per questo il ricorso è stato respinto. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il ministro della Giustizia Orlando sta riferendo in questi minuti in Senato su quello che è successo nel Tribunale di Milano. In diretta Roberta Pellegatta. Roberta, buongiorno. Buongiorno, sì, un'informativa urgente del Guardasigilli, iniziata alle 12.30 in Senato, riguarda gli avvenimenti, come dicevi, del 9 aprile scorso al Palazzo di Giustizia di Milano, dove Claudio Giardiello ha ucciso a colpi di pistola tre persone, il giudice Ciampi, l'avvocato Clarissa Piani e l'ex socio Giorgio Erba, ferendo poi altre due persone. Il ministro Orlando, nell'informativa, ha ricostruito prima i fatti avvenuti giovedì 9 aprile, poi si è concentrato sull'organizzazione del Tribunale di Milano dal punto di vista dei controlli e poi su quella in genere che regola la sicurezza nei palazzi di giustizia. Per quanto riguarda il Tribunale milanese, Orlando ha riferito che ad ora non sono emerse falle o inadempienze, annunciando comunque da questo punto di vista sostanziali novità. Sentiamo il Guardasigilli. Per quanto riguarda la vicenda milanese, ogni richiesta di autorizzazione in relativa alle esigenze di sicurezza del Palazzo di Giustizia di Milano è stata puntualmente evasa e non risultano alla data dell'evento delittuoso richieste pendenti. Ne risultano rappresentati dagli uffici milanesi ulteriori temi di rilievo ai fini della sicurezza. La situazione e il quadro giuridico di riferimento appena delineati sono tuttavia destinati a mutare a breve radicalmente. Come è noto, infatti, la legge di stabilità 2015 ha previsto che a decorrere dal prossimo 1 settembre le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari saranno trasferite al Ministero della Giustizia. Comporterà rilevantissime modificazioni anche delle competenze concernenti la sicurezza dei palazzi di giustizia italiani. Così il ministro Landro nella sua informativa al Senato. Alle 14.30 poi il Guardasigilli riferirà alla Camera e poi nel pomeriggio incontrerà i procuratori generali, una riunione a cui parteciperà anche la Procura Generale milanese. Tra le proposte per garantire la sicurezza nei tribunali vi sono l'ipotesi di un controllo degli ingressi con badge e metal detector più rapidi anche per dipendenti e toghe e un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine dentro il palazzo. Il premier Renzi ha già annunciato, lo ha fatto martedì, che su questo il ministro della Giustizia avrà carta bianca. E per il momento è tutto. Grazie Roberta Pellegatta per questi aggiornamenti. Il presidente onorario e fondatore del Front National, Jean-Marie Le Pen, ed è una notizia di pochi istanti fa, è stato ricoverato in ospedale a Parigi. Il padre, Marine Le Pen, è attualmente sottoposto ad esami, come sapete, ricorderete, vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi del recentissimo scontro con la figlia che ha deciso di escluderlo dalle liste per una serie di sue dichiarazioni. Siamo in Francia, ma parliamo di tutt'altro argomento. Parliamo del Festival di Cannes. Marta Cagnola, tre italiani in concorso. Tre italiani in concorso, l'avevamo anticipato a Effetto Giorno. Chi ascolta Effetto Giorno già sapeva che era molto probabile che così sarebbe stato e così è stato. Nanni Moretti, Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, per festeggiare il fatto che saranno tutti e tre in concorso a Cannes, hanno mandato un comunicato stampa congiunto con una foto tutti e tre abbracciati. Siamo felici e orgogliosi di rappresentare l'Italia in concorso al prossimo Festival di Cannes, hanno Marta, scritto. Marta, questo vuol dire che se l'aspettavano pure loro, insomma. Beh, allora, può essere che fosse una foto scattata così innocentemente tra amici. Certo è che questo comunicato, insomma, è arrivato praticamente contestualmente alla dichiarazione, quindi sì, sicuramente era atteso e sicuramente probabilmente, insomma, lo sapevano già da almeno da qualche ora, se non da qualche giorno. Una grande occasione per noi e per tutto il cinema italiano, dicono, i nostri film, ognuno a suo modo, cercano di avere uno sguardo personale sulla realtà realtà e sul cinema. Ci auguriamo che la nostra presenza a Cannes possa essere uno stimolo per tanti altri registi italiani che cercano strade meno ovvie e convenzionali. Bisogna dire che c'è anche un altro italiano, che è Roberto Minervini, che era già stato fuori concorso 2 anni fa con Stop the Pounding Heart, sarà in The Other Side nella sezione Un Certain Regard, quella presieduta da Isabella Rossellini. Bisogna tornare indietro al 94 per vedere una presenza così forte degli italiani. C'era stato Caro Diario di Moretti, che era stato premiato per la regia, Le Buttane di Aurelio Grimaldi, Una pura formalità di Tornatore e Barnabò dalle montagne di Mario Brenta. Era l'anno, per ricordarci, della Palma d'Oro Pulp Fiction. Un bell'anno. Un bell'anno complessivamente. Ultima domanda, Marta, speranze di vittoria? Beh, allora, io per ora ho visto solo Moretti ed è un film che non solo piace, ma che secondo me piacerà molto anche alla giuria. Gli altri due non li ho ancora visti, però diciamo che, ragazzi, Sorrentino e Garrone non possono deluderci. Selezione forte, però, ci sono dei nomi pesanti. Vedremo. Speriamo in bene. Grazie, Marta Cagnola. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi parleremo con Giorgio Innocenzi, che è il segretario generale del CONSAP, che è il sindacato di polizia al quale aderisce anche Tortosa, il poliziotto oggi sospeso per le sue frasi su Facebook sulla scuola Diaz. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Eruzione alla Diaz, sospeso l'agente Tortosa dopo le frasi su Facebook. Il capo della polizia ha sbagliato mestiere, dice Salvini. Un uomo di Torino è fuggito in Francia con il figlio neonato, lasciando la moglie nel parcheggio del supermercato. Si sono perse le tracce, proseguono le ricerche. Avrebbe, a quanto risulta, problemi psichici. Sparatore in tribunale, il ministro Orlando questo pomeriggio incontrerà i procuratori sulla sicurezza nei palazzi di giustizia. Sono 3 i film italiani in concorso a Cannes: Matteo Garrone con Racconto dei racconti, Nanni Moretti con Mia madre, Paolo Sorrentino con La giovinezza. Saluto Paolo Maninchedda, che è assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna. Buongiorno e benvenuto, assessore. Buongiorno a voi, grazie. L'abbiamo chiamata perché in queste ore noi ci siamo concentrati tanto sulla Palermo-Catania, ma nel frattempo le cose dalle parti delle strade sarde non vanno tanto meglio. Certo, non parliamo di un'autostrada, parliamo della statale 554 bis, ma anche qua uno smottamento, un crollo e la strada sostanzialmente, mi sembra di capire, assessore, impercorribile. Ma ci spiega un po' quando sono stati finiti i lavori di ammodernamento di questa strada? Ma piuttosto che iniziare dalla fine, forse occorrerebbe iniziare dal principio, perché sono quelle strade progettate all'inizio degli anni 90 con progetti approvati a fine degli anni 90, aggiudicazione dei lavori nel 2001, perizia di variante nel 2004, conclusi nel 2005-2007 e poi già nel 2011 la regione aveva segnalato all'ANAS alcuni cedimenti, aveva chiesto chiarimenti. Successivamente il cedimento attuale è stato ulteriormente ispezionato, l'ANAS ha affidato una verifica della situazione in atto all'Università degli Studi di Cagliari e i dati evidenziano una superficie di scivolamento del versante abbastanza profonda, cioè circa 10 metri dal piano stradale, e l'università certifica che questo movimento corrisponde presumibilmente ad una frana preesistente alla costruzione dell'opera e che è stata riattivata dalle precipitazioni. Quindi in sostanza, Maninchedda, giusto per chiarirci, è la stessa situazione della Palermo-Catania, una frana preesistente della quale nessuno ha tenuto conto nella fase di costruzione e di progettazione della strada, evidentemente. Ma a sentire l'Università di Cagliari sì, tenga presente che la regione non è stazione appaltante e lo è l'ANAS. Noi abbiamo liquidato all'ANAS per il primo stralcio della 554 bis, proprio quello in cui si è realizzato il crollo, 51 milioni di costi e abbiamo liquidato al progettista 5 milioni di onorari, ritenendo alla luce delle perizie di collaudo fatte dai tecnici ANAS che appunto l'opera fosse stata realizzata ad opera d'arte, a regola d'arte. A questo punto immagino vi vorrete rivalere su ANAS stessa, perché insomma 55 milioni di euro è una discreta cifra, ecco. La prima operazione che abbiamo in mente è porre rimedio attualmente al disagio ai cittadini, perché la 554 bis collega due arterie principali della Sardegna, la strada statale 125 e la 131, e in prossimità della stagione estiva per noi il primo dovere è quello di garantire un traffico sostenibile, evitare gli ingorghi. Quindi il 22 abbiamo chiesto ad ANAS un incontro per verificare quali sono le soluzioni alternative mentre loro pongono in essere i rimedi necessari. Secondo, abbiamo detto ad ANAS, ma ANAS lo sapeva perfettamente, che la regione Sardegna non intende mettere un solo euro per rimediare al crollo in atto. Il terzo elemento è certamente quello delle responsabilità. Qui intervengono tanti fattori, ecco, non ultima la storia giuridica dell'Italia su come si affidavano le progettazioni un tempo, su come si realizzano i collaudi. La regione Sardegna per esempio sta per dotarsi di una sua legge sugli appalti, chiaramente maturata all'interno del 163, del decreto legislativo 163, ma bisognerebbe generalizzare la pratica delle SDILT, cioè quando prima del collaudo si devono consegnare tutti i documenti relativi alla storia del manufatto, in maniera sì. tale che il collaudatore sì, abbia anche se poi assessore, mi sembra di capire che in questi casi non basta la storia del manufatto, ma ci vuole anche la storia del terreno circostante, perché ripeto, questo è un altro elemento, da quel che vediamo da parte vostra, da quel che abbiamo visto sulla Palermo Catania, c'è anche un problema di questo tipo. Sì, il problema è anche che in Italia ci si è molto concentrati sulla progettazione e sulle modalità di concessione dell'appalto, ma molto meno sulla programmazione delle opere pubbliche. Spesso le opere pubbliche vengono fatte perché ci sono le risorse disponibili e non invece perché sono utili, perché la loro sostenibilità economica è stata verificata, perché l'impatto ambientale è stato approfondito. L'Italia sta verificando attraverso il crollo di alcune infrastrutture un po' della propria ipocrisia in materia di legislazione sugli appalti. Poi è chiaro che si può sì. pensare di risolvere i problemi all'italiana cercando soltanto i responsabili, che pure vanno cercati. Oppure anche pensando di evolversi in termini di civiltà sì. giuridica e costruttiva. La ringrazio, grazie a Paolo Maninchedda, assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna, le auguro una buona giornata. Con noi Giorgio Innocenzi, segretario generale del CONSAP. Buongiorno Innocenzi, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Come giudica i provvedimenti di il CONSAP, è un sindacato di polizia, come giudica i provvedimenti di sospensione varati oggi dal capo della polizia, dal Ministero dell'Interno, per quanto riguarda Tortosa, per le sue frasi in merito all'irruzione alla Diaz e contro Carlo Giuliani e contro quel vicequestore che ha messo mi piace allo stato su Facebook di Tortosa? Qual è il vostro giudizio? Beh, innanzitutto credo che siano, diciamo, provvedimenti sacrosanti previsti dal nostro ordinamento. Noi abbiamo un regolamento di disciplina che prevede che in ipotesi in cui ci sia un danno all'immagine delle istituzioni immediatamente si attivano i procedimenti disciplinari. Quindi da questo punto di vista ritengo che, insomma, il capo della polizia abbia operato secondo la normativa. Però credo pure che bisognerà in qualche modo anche fare una riflessione su quello che è successo. Premetto una cosa, che le frasi, talune di quelle frasi, diciamo, nel post sono inaccettabili, sono assolutamente gravi e quindi, voglio dire, irripetibili. Premetto un'altra cosa, che la Diaz è sicuramente una pagina nera e quindi la polizia di questa pagina nera non ne ha assolutamente bisogno, di fare tutto per cancellarla, per eliminare la memoria. L'unica cosa su cui mi permetto di avere una visione diversa riguarda, diciamo, l'interpretazione delle parole di Tortosa. Talune parole credo che siano state male interpretate, perché quando Tortosa dice rientrerai nella Diaz, non vuole rientrare per fare il torturatore con qualcuno, ma semplicemente per fare il suo dovere, perché Tortosa nella Diaz non ha fatto nulla di male, tant'è vero che l'accertamento della magistratura ha visto completamente estraneo ai fatti. Quindi lui intendeva dire, e questa è la mia interpretazione, e questo è quello che poi Tortosa ha cercato anche di chiarire, che rientrerebbe qualora qualcuno gli disponesse, ma non per fare quello che è successo, ma per fare il proprio dovere, perché il poliziotto deve obbedire a degli ordini superiori. E poi io credo che ci sia anche però mi scusi, uno che scrive di Carlo Giuliani, che uno potrà avere il giudizio che vuole su quello che è successo sulla morte di Carlo Giuliani. Detto ciò, di una persona che è morta, spero faccia gravi. Schifo ai vermi. È un po' troppo, no? Assolutamente, quelle sono frasi veramente gravi, veramente censurabili, e non devono assolutamente trovare spazio in nessun commento, da parte soprattutto di un appartenente a una forza di polizia, una forza dello Stato, insomma. Quindi questo, ecco perché credo che sia doveroso l'accertamento da parte degli organi competenti del Ministero dell'Interno. Tra l'altro Tortosa è un dirigente del vostro sindacato, cosa avete intenzione di fare voi? Guardi, noi abbiamo uno statuto democratico che disciplina l'attività del sindacato, che prevede che in casi di questi generi si attivino i propri viri. Noi l'abbiamo deferito al collegio dei propri viri del sindacato, e quindi lui avrà anche un procedimento con tutte le regole democratiche, quindi insomma sarà invitato a fornire spiegazioni, sarà ascoltato dai colleghi che fanno parte di questo organismo e sarà valutato, insomma, perché è giusto che sia così. D'altronde il sindacato è un organismo democratico, quindi prevede provvedimenti, diciamo, l'espulsione dal sindacato come sanzione organica più grave. E prevede che questo possa avvenire, Innocenzi? Io prevedo che i colleghi che fanno parte del collegio già stanno acquisendo la documentazione, hanno già preso chiaramente copia di tutto quanto le dichiarazioni attribuite o attribuibili a Tortosa, le valuteranno insomma adeguatamente. Grazie. Però voglio dire un altro aspetto che sta passando brevemente, però, secondo me, brevemente, e riguarda l'aspetto, adesso noi andiamo verso la sospensione del Tortosa. La sospensione del Tortosa significa togliere pistola e tesserino, rendere quindi Tortosa per 3-6 mesi, quello che sarà il provvedimento, non più un poliziotto ma un semplice cittadino. In questo momento però credo che Tortosa abbia necessità di essere tutelato di più degli altri, perché se lei ha modo di leggere quello che sta avvenendo su Facebook, vedrà che Tortosa e i suoi familiari sono oggetto di minacce da parte di soggetti anche con un curriculum piuttosto complesso, e quindi Tortosa diventa un soggetto in questo momento esposto. Cosa intende per curriculum piuttosto complesso? È perché lei vede, ci sono dei gruppi che si firmano in vario modo su Facebook che minacciano Tortosa, la moglie, i familiari e tutti noi stessi come sindacato a Torino siamo stati costretti poco fa ad andare a sporgere denuncia contro ignoti perché abbiamo subito delle minacce gravissime. E quindi secondo lei, Innocenzi, ci vuole una scorta per Tortosa? Guardi, stiamo chiedendo al capo proprio questo, mi accingo a scrivere una lettera molto garbata al capo, cioè dicendo: guardi carissimo capo, siccome lei giustamente ha preso questo provvedimento, sappia che in questo momento, sicuramente lo sa meglio di me il capo della polizia, perché insomma è più informato anche di noi, questo momento Tortosa è esposto potenzialmente a dei rischi molto gravi, lui e i suoi familiari. Non possiamo lasciarlo indifeso. Grazie Giorgio Innocenzi, segretario generale del CONSAP. Buona giornata. L'ascoltatore che ci scrive: Giuliani era un delinquente, voi difendete i delinquenti e non i poveri poliziotti. Guardi, abbiamo intervistato per 5 minuti il segretario generale di un sindacato di polizia. Io non so francamente che cosa fare di più. Parliamo invece di chi attacca e duramente gli ultras, il presidente della Roma. It's just not fair for all of our fans to be punished by a few fucking idiots and assholes that hang out in the curve of Sud. Li aveva definiti così, pochi fottuti idioti, dopo che avevano esposto nella gara interna contro il Napoli gli striscioni contro la madre di Ciro Esposito. Poi James Pallotta aveva lanciato un altro segnale chiaro agli ultraromanisti, non facendo ricorso contro la conseguente chiusura della curva Sud per un turno. Ora il presidente americano dei giallorossi torna alla carica con gli stessi toni. I veri tifosi non insultano e non tirano merda sui giocatori, non sono razzisti e non sono violenti, noi ci dobbiamo sbarazzare di loro, fa sapere Pallotta via chat ufficiale del club. Un braccio di ferro rinfocolato in questi giorni anche dall'apertura della campagna abbonamenti per il prossimo anno, che gli ultra vorrebbero boicottare proprio in chiave anti-Pallotta. Ma lui, il bostoniano, fa la faccia da duro ed è deciso a tirare avanti. Obiettivo: cambiare la cultura sportiva, isolare i violenti, ripulire la curva. Sfida improba, ma che merita un applauso e magari qualche parola di sostegno in più da parte dei vertici del nostro calcio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, una pausa e poi la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Irruzione alla Diaz, è stato sospeso l'agente Tortosa dopo le frasi su Facebook. Il segretario del sindacato, il CONSAP, dice: chiederemo la scorta per lui dopo le minacce che ha ricevuto. Un uomo di Torino è fuggito in Francia con il figlio neonato, lasciando la moglie nel parcheggio del supermercato. Si sono perse le tracce. Operatore in tribunale, il ministro Orlando, questo pomeriggio l'incontro incontra i procuratori sulla sicurezza nei palazzi di giustizia. Dopo l'assemblea di ieri sulla legge elettorale si approfondisce la spaccatura nel PD. Qualcuno della minoranza dice: costruiamo l'alternativa a Renzi. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È stato presentato poco fa il piano industriale dopo l'acquisizione di Indesit da parte di Whirlpool e a quanto pare un piano industriale piuttosto duro e che prevede parecchi esuberi. Gianluca Ficco, responsabile elettrodomestici, il settore elettrodomestici della Wilm, il sindacato metalmeccanici della Wilm, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Che cosa vi ha prospettato l'azienda? L'azienda ci ha prospettato un piano industriale che dal suo punto di vista deve servire a fare sinergie fra gli impianti acquistati da Indesit e quelli naturalmente preesistenti. Sinergie sia nell'ambito delle fabbriche del centro di ricerca e sviluppo. La cosa amara è che nonostante un piano di investimenti molto forte di 500 milioni in 4 anni e nonostante una previsione di aumento dei volumi complessivi, purtroppo l'azienda dichiara ben 1.350 esuberi e addirittura la chiusura. La chiusura di dello stabilimento di Caserta, mi sembra di capire. Lo stabilimento di Caserta, che ha circa 800 persone, quindi un grande stabilimento, e poi per la verità anche la chiusura dell'unità produttiva di None, che più particolarmente si compone di un magazzino e di un centro di ricerche per tutta una novantina di persone complessive, e infine la chiusura del sito di Albacina, ma i 600 lavoratori di Albacina, secondo questo primo cenno fatto dall'azienda, dovrebbero essere trasferiti nel vicino insediamento di Melano. Quindi un piano nel complesso, possiamo dire, molto squilibrato, tra alcune fabbriche che addirittura dovrebbero vedere incrementata l'occupazione, come quella di Varese, altre relativamente tranquille come Siena, Comunanza in provincia di Ascoli, e altre invece che pagano un prezzo altissimo, soprattutto Caserta, che addirittura chiude. La ringrazio per questo aggiornamento quasi giornalistico, diciamo così, più che da sindacalista. Gianluca Ficco, responsabile elettrodomestici della Wilm, torneremo a parlarne. Una breve risposta in 20 secondi agli ascoltatori che stanno scrivendo in questi minuti in merito alla vicenda di Carlo Giuliani, ne abbiamo parlato poco fa. Allora, qua non si è presa alcuna posizione, si è semplicemente detto che la frase di Tortosa era una frase molto grave, perché dire di una persona che è morta "spero che faccia schifo pure ai vermi che lo stanno mangiando mentre è sottoterra" è una frase grave. Poi tutt'altra cosa è il giudizio su come siano andati i fatti a Genova e il giudizio sulla vicenda Giuliani. Quindi smettiamola con questi sms, perché ripeto, qua non si è presa nessuna posizione in merito. Claudio Montaldo, assessore alla salute della regione Liguria, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, e rimaniamo, buongiorno, se vogliamo, in parallelo su queste vicende, perché si è scoperto questa mattina che era stato organizzato un convegno dalla ASL 3 della Liguria sulla salute in carcere, al quale avrebbe dovuto partecipare come relatrice una persona, la dottoressa Zaccardi, che è stata sotto processo per le violenze a Bolzaneto, e viene riportata una sua frase detta ad alcune persone che erano state là picchiate e torturate: puzzate come cani. Avete fatto saltare il convegno, da quel che ho capito, assessore? Sì, è così. Io penso che gli organizzatori siano stati davvero poco attenti, e sia forse una presenza sbagliata. Per di più, anche la materia trattata, che riguarda la la salute in carcere, l'accoglienza delle persone, la cura delle persone recluse, fosse in netta contraddizione con la storia di tortura che è la Corte d'Appello, che poi ha mandato prescritta questa, questo medico ha però sottolineato nella sentenza. E quindi il direttore della ASL questa mattina ha annullato il convegno e comunque abbiamo convenuto su mia richiesta che adesso sulla questione si vada a fondo perché non doveva succedere. La ringrazio, grazie a Claudio Montaldo, grazie. Assessore alla salute della Regione Liguria. Prima di chiudere, un aggiornamento dal Salone del Mobile, nel quale si parla anche di nuove modalità di lavoro. Sentiamo. Si parla anche di smart working al Salone. La Fiera del Mobile ospita la biennale Workplace 3.0, che quest'anno punta sulle nuove frontiere dell'ufficio. Sintesi di questa nuova concezione è l'installazione situata al centro del padiglione, un percorso attraverso ambienti lavorativi che sottolinea l'importanza di muoversi per lavorare meglio, come ci racconta l'autore dell'opera, l'architetto ferrarese Michele De Lucchi. C'è bisogno di una nuova organizzazione di lavoro, perché stare seduti oggi non serve più. Lavorare vuol dire entrare in contatto con il mondo, entrare in contatto con le persone. L'installazione di De Lucchi immagina un ufficio aperto, fatto di materiali naturali, con spazi per concentrarsi, muoversi, fare ginnastica e incontrarsi in modo dinamico. Ma siamo sicuri che le imprese di oggi siano pronte a recepire questo nuovo modo di intendere il lavoro? Per De Lucchi non c'è dubbio. Credo che anche oggi, vedendo il comportamento negli uffici delle aziende più di successo, si possa riconoscere che la stessa azienda invita le persone, i propri dipendenti, a dare un contributo non puramente di un fare burocratico, ma un contributo di fare creativo. Nicola Scevola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Traffico.